entero. Chi da tempo ormai non torna più. Prima c'eri tu. Chi nel cuore un sasso che vorrei buttare via. So che prima o poi succederà. Sei più che senso ha. Chiaro amore, amore mio, dentro questi